Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Daniel comincia a darsi da fare per organizzare il matrimonio. Da Stephanie ebbe scarso aiuto. Lei infatti si limitava ad acconsentire pazientemente a tutto ciò che lui suggeriva. Cosa che lo faceva infuriare e anche gli dispiaceva. Intuiva infatti che Stephanie dubitava di tutto, inclusi lui e se stessa. Ciò lo spinse a impegnarsi ancora di più, visto che poteva contare solo sulle proprie energie. Ebbe uno scontro con il pastore per le pubblicazioni e un altro per la sua scelta di vivere nel quartiere di Arkwright. Il pastore parlò della posizione che la Chiesa deve mantenere, di come gli assistenti sociali non apprezzino interferenze nei loro settori di intervento. Daniel urlò con tutta la voce che aveva, rammentandogli quello che Cristo aveva detto, fatto e ingiunto ai suoi seguaci. Sapeva che il pastore pativa fisicamente le sue grida e che se lui ruggiva avrebbe fatto qualunque cosa purché si calmasse e se ne andasse. E Daniel ruggì. Scoprì però di avere un'alleata. Winifred insorse all'improvviso, come una tempata valchiria, e si dedicò all'organizzazione del matrimonio. Tra fine aprile e maggio, Bill si comportò in modo inquieto e delusivo. Trascorreva moltissime ore a scuola e la sera si tratteneva fino a tardi nei pub dei villaggi minerari con gli studenti dei corsi serali. Portava a casa doni a sorpresa, di solito libri, di solito per Stephanie, e restava lì impalato, con le labbra contratte, gli occhi umidi, in attesa di una gratitudine che diventava difficile esprimere. Nel mese di maggio regalò a sua figlia Le confessioni di un peccatore scagionato, la traduzione di Carey della Divina Commedia, il Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein e gli appunti per una definizione della cultura di Eliot, che Stephanie già possedeva e che passò a Frederica. Stephanie disse a Daniel che era impossibile stabilire se fossero furtivi regali di nozze o contributi al dibattito cristiano-umanista dell'anima tormentata di sua figlia. Daniel ignorava di cosa parlassero gran parte di quei libri e domandò a Stephanie se a suo parere dovesse leggerli. «No, naturalmente no», rispose lei, e ripiombò nel suo grigio silenzio. Winifred, la cui abilità tattica faceva rapidi progressi, una sera domandò senza mezzi termini a Bill se era o non era categoricamente contrario ai preparativi del matrimonio. Bill urlò che glielo aveva già detto una volta. Quello che facevano gli altri non era affar suo, purché non cercassero di coinvolgerlo o interpellarlo. E poi, non vedeva che stava lavorando? Attese che lei riformulasse ansiosamente la domanda, cosa che non accadde. Poi Winifred fece visita alla signora Allenby e dopo la signora Allenby alla signora Thorne, moglie del direttore della scuola. La signora Thorne incuteva maggior timore. Nei primi tempi, dopo l'arrivo di Winifred a scuola, la signora Thorne aveva tentato nei suoi confronti delle aperture amichevoli, inviti per un caffè o a cena, di cui Winifred accettava il minimo indispensabile e che non osava ricambiare poiché Bill disprezzava il suo principale e lei temeva, pur senza ammetterlo neppure con se stessa, che se avesse invitato spesso i signori Thorne la sera, Bill avrebbe architettato qualche mostruosa villania e di conseguenza azzerato la sua già esigua vita di società. Monica Thorne aveva l'aria di un dirigente scolastico più del marito. Indossava completi grigi di tweed e costoso camicette di seta. Aveva capelli sale e pepe, tagliati corti. Aveva fatto studi umanistici a Oxford. Accolse Winifred freddamente e Winifred ebbe difficoltà ad avviare la conversazione. Sedettero nel gelido salotto della signora Thorne. Due donne inglesi alte, austere, rigide, incapaci di deporre i loro scudi inglesi di prudente silenzio. Winifred pensò, potrei mettermi a piangere, potrei dare in escandescenze. Questo mai, disse neutra. Ho bisogno del tuo aiuto. Come posso aiutarti? Si tratta di mio marito. Bisogna che ti spieghi. Mio marito, sei proprio sicura di... mormorò la signora Thorne. Winifred, con più decisione, disse di esserne sicurissima. Fece una sintesi eccellente e distaccata degli eventi fino a quel momento e spiegò che il matrimonio doveva essere celebrato e subito e che Bill non doveva essere disturbato né coinvolto. E io cosa posso fare? Non mi piace parlare di Bill. Ne sarebbe terribilmente offeso. Secondo mio marito, Bill è un genio difficile. Se sei sposata con lui, disse Winifred, vedi più la difficoltà che il genio. Mio marito dice che è un uomo prezioso e spesso intollerabile. Appunto. Si scambiarono un sorriso. Mi chiedevo se tuo marito, la scuola, potesse contribuire al rinfresco nuziale. A dire il vero, non sono neppure sicura che Bill verrà. Voglio che sia fatto tutto come si deve, per Stephanie. Tutto ciò che bisogna fare. Qui lui non potrebbe fare obiezioni oscenate. Capisco. Perdonami, disse la signora Thorne con garbo. Ma come farai, viste le circostanze, con i soldi? Abbiamo un conto congiunto. Lo userò. La signora Thorne scoppiò a ridere. Conto sul fatto che Bill finga di non accorgersi di nulla. Non è detto. Può combinare un sacco di cose, ma con un po' di fortuna non riuscirà a fermare un intero matrimonio. Tua figlia sembra una brava ragazza, tranquilla. E il giovanotto è un giovanotto solido? Solido, sì, disse Winifred. E sembra un rullo compressore. Non ammette ostacoli. Winifred, disse la signora Thorne, mostrava più affinità con un rullo compressore di quanto si sarebbe aspettata. Le andava, a lei e a tutti i Potter disponibili, di venire a vedere la televisione il giorno dell'incoronazione di Elisabetta? I ragazzi erano quasi tutti in vacanza, naturalmente, ma ce n'erano sempre due o tre senza un posto dove andare. Li avrebbe invitati, e anche alcuni insegnanti. Winifred si sentì insieme obbligata e lieta di accettare l'invito. Daniel e Stephanie avevano ora una data per il matrimonio, il 21 giugno, e un invito all'incoronazione, alla televisione. Winifred tirò fuori la macchina da cucire e imbastì un vestito di popelin giallo per Frederica. La sarta della signora Allenby prese le misure a Stephanie. Vennero spediti gli inviti anche a Potter sconosciuti. Stephanie scrisse alla signora Orton una lettera breve piena di garbo, proponendo di andarla a trovare. Ricevette una cartolina floreale, un mazzo di dahlie in un enorme vaso d'argento su un tavolino brunito. Sul retro la signora Orton aveva scritto: «Non venire sarebbe troppo disturbo per tutti. La mia salute non è troppo buona, ma il giorno del matrimonio ci sarò. Non preoccuparti. Grazie per avermi scritto e tanti auguri». Daniel disse che sua madre era una vecchia pigra e lo era sempre stata. Aggiunse cupamente che avrebbe dato sui nervi alla signora Allenby, ma... sia quello che deve essere. Stephanie non trovò niente da dire neppure su quello. Prima del 2 giugno di quel 1953, la maggior parte delle persone riunite nel salotto della signora Thorne non aveva mai assistito a un programma televisivo. Tra loro c'erano tutti i membri della famiglia Potter, Felicity Wells, Goffrey e Jennifer Perry e Luca Simmons, che era eccitatissimo e aveva detto a Marcus che sia l'incoronazione sia la televisione potevano fornire proficue esperienze di trasmissione di energia. C'era anche Alexander, la cui speranza di essere invitato a Long Royston da Crow era stata delusa. A metà mattina la signora Thorne udì il campanello e sulla porta trovò Edmund Wilkie in compagnia di una strana ragazza. Con la consueta disinvoltura Wilkie disse che aveva sentito dire che quel giorno la sua casa era aperta e questa è Caroline, spiegò chiedendo il permesso di unirsi al gruppo. Passò davanti alla signora Thorne ed entrò, trascinando la sua ragazza per la vita e lasciando cadere una lunghissima sciarpa e un casco da motocicletta sferico sulla cassapanca di quercia. La signora Thorne li fece accomodare. Edmund era stato una spina nel fianco del professor Thorne. Aveva infranto tutte le regole, aveva alimentato conflitti emozionali, morali e intellettuali senza mai prendere partito se non per se stesso. Aveva clamorosamente dichiarato di aver ottenuto i suoi clamorosi successi non grazie, ma a dispetto degli sforzi del professor Thorne e della comunità. Malgrado ciò, Basil Thorne provava una perversa e peraltro non insolita affezione, non per l'intelligenza di Wilkie di cui diffidava, ma per la pura difficoltà che presentava. Come molti insegnanti, era portato ad amare il caso più difficile, non la medietà del gregge. E Wilkie, come ogni figliol prodigo, di tanto in tanto tornava per ristabilire, sfoggiare, esigere e respingere questa irragionevole attrazione, che Bill Potter non condivideva. Lui non contemplava la psicologia come parte della gerarchia culturale. Così, quando Wilkie entrò nella stanza rosa e argento della signora Tone, il professor Tone, roseo anch'egli, con una chioma di capelli argentei che gli allievi consideravano senza prove un parrucchino, lo accolse lietamente. Bill borbottò e sprofondò di più nella poltrona. Wilkie, sempre tenendo stretta la ragazza, salutò allegramente i suoi conoscenti e presentò Caroline. «Guardate!» disse Frederica. «Ecco la regina!» «È una farsa», disse la ragazza di Wilkie. La signorina Wells si lasciò sfuggire un gemito di dolore. «Forza, sedetevi!» ordinò Alexander a Wilkie. A quei tempi l'occhio intrusivo della telecamera e l'indiscrezione dello schermo non avevano ancora imposto norme pubbliche e private. Nel commentare la copertura dell'evento, il cronista ufficiale della BBC si chiedeva: «Non ci sarà qualcosa di sconveniente nell'eventualità che gli spettatori assistano a questa grandiosa e solenne cerimonia con una tazza di tè a portata di mano? La questione non può non sollevare gravi dubbi». La maggior parte della stampa era democraticamente e statisticamente estatica. «L'incoronazione si appropria del piccolo schermo. Ne fa una finestra su Westminster per 125 milioni di persone». Questi milioni di persone, da Amburgo a Hollywood, vedranno la carrozza reale scampanellare per le strade di Londra, osannante in questo giorno memorabile. 800 microfoni sono pronti per 140 giornalisti televisivi che racconteranno al mondo l'incoronazione di Elisabetta. Ma oggi è il giorno di gloria della televisione. La televisione, in diretta con i sudditi della regina, conferirà nuova verità al riconoscimento del monarca nel giorno della sua incoronazione. E la regina, in piedi davanti al trono di re Edoardo, si volterà e si mostrerà al popolo. Tutti lo chiamavano piccolo schermo e chiamavano la regina ripetutamente, con grande diletto, piccola figura, lodandone ripetutamente il portamento eretto e fiero, sebbene fosse esausta per la lunga cerimonia, il peso degli abiti sontuosi e l'imponente corona. Diminutivi e superlativi proliferavano mentre guardavano le guizzanti ombre grigie e bianche, il luccichio del metallo e delle gemme, una bambolina opaca e scintillante, alta un centimetro, due, cinque, un viso largo forse 20 centimetri, grave o graziosamente raggiante, una sorridente immagine in bianco e nero di lino plissettato e panno d'oro con sfavillanti ricami dalle sfumature madreperlacee. Inquadrati della dimensione di un francobollo, di una busta, cortei di uomini con teste minuscole come spilli, morbidi aiuole e indifferenziati, una folla dopo l'altra, uguali eppure diverse, pezzi d'artiglieria, minuscoli pari d'Inghilterra in culotto e corona nobiliare, vetrate, cori, insegne reali, in un turbine di grigi, con il commento della voce tonante del cronista e il fragore di salmi e inni che accompagnavano l'ininterrotto fluire, formarsi, disperdersi, riformarsi. Che cosa capivano davvero di quell'evento? La stampa auspicava una nuova era elisabettiana con parole blandamente liriche, spasmodicamente arcaiche, pesantemente esortative. La luminosa promessa del domani è quella di una seconda era elisabettiana in cui le sempre maggiori risorse della scienza, dell'industria e dell'arte saranno mobilitate per alleviare il fardello di ogni uomo e per produrre nuove opportunità di vita e di svago. Eppure proprio in questi anni le prime nubi atomiche si sono addensate tra noi e il sole. Quello che è chiaro è che molte generazioni saranno derubate del loro futuro se non si raggiungerà una pace duratura. Anche la retorica di Winston Churchill aveva la sua nota di certezza arcaica, pregna di ritmi ereditati e logori. Stranamente, tra affermazioni magniloquenti e fiduciose, si insinuava il dubbio. In un imperiale articolo di fondo, il Daily Express citava con rutilante incongruenza: «Le glorie del nostro sangue e dello Stato sono ombre sprovviste di sostanza». e commentava questo tetro pensiero dicendo che erano ombre, certo, a meno che il popolo intero e la regina non si dedicassero a grandiosi progetti e li perseguissero con inesauribile tenacia. Il News Chronicle, a proposito della spedizione sull'Everest, oscillava tra consenso impacciato e contorsioni di imbarazzo verbale e morale. Anch'esso faceva ricorso a due versi inopportunamente ambigui di grande poesia inglese, questa volta di Browning. Ah, se la mano potesse tendersi oltre la presa, se no, a cosa serve il cielo? Usava toni lirici quando parlava del gelido, magnifico, crudele, desiderabile apice della terra, fuori dalla portata dell'uomo, decennio dopo decennio. Non osava dire, sebbene flirtasse velatamente con l'idea, che l'incoronazione e la conquista dell'Everest segnavano l'avvento del nuovo impero, il cielo sulla terra, l'età dell'oro, Cleopolis o altre analoghe congiunture di inflazione temporale e soddisfazione eterna. Invece rimuginava: queste isole fremono di bandiere e ora un'altra bandiera freme sulla vetta del mondo, sul pinnacolo della terra. È lo stesso simbolo. Frederica condivideva sostanzialmente l'opinione della ragazza di Wilkie. È una farsa, e pensava che questa fosse la reazione giusta. Era così che i contemporanei dovevano giudicare simili eventi. Contemporaneo a quei tempi era sinonimo di moderno. Contemporaneo era ciò che Frederica desiderava di essere, ed era abbastanza intelligente per capire che l'incoronazione non solo non inaugurava un'era nuova, ma non era neppure un evento contemporaneo. Il vero paradiso, diceva Proust, è sempre il paradiso perduto. Solo quando fu abbastanza adulta per equiparare le tenui speranze del 1953 con la sua quasi immatura consapevolezza del fatto che ogni cosa costituisce un nuovo inizio e che la realtà per lei era il futuro, solo allora Frederica poté provare nostalgia per quella che un tempo aveva sbrigativamente liquidato come patetica illusione. E sempre proustianamente, con il passare degli anni, cominciò ad associare la propria ossessione per i quattro quartetti con l'incoronazione, con i gesti dell'incoronazione, la storia e la continuità. L'incoronazione aveva tentato senza successo di dar corpo sia al presente sia all'Inghilterra. C'erano stati fallimenti peggiori. Nella misura in cui ogni tentativo è per definizione un non fallimento, visto che il presente è presente e la regina era incoronata, qualunque cosa ne pensasse il popolo, era davvero il presente e l'Inghilterra a quell'epoca. Daniel e Stephanie videro ben poco. Stephanie guardava Bill e Daniel guardava Stephanie. E Bill guardava la televisione, mostrando un piacere infantile imprevisto per i suoi meccanismi. Jennifer Perry guardava Alexander e Goffrey guardava il piccolo Thomas assicurato con una cinghia a un seggiolino sul pavimento. La signora Thorn non era molto commossa. La fissazione di Alexander per il passato lo rendeva ipercritico nei confronti del presente. Fu estremamente irritato dalle parole del commentatore che volle sottolineare l'encomio di Elisabetta II con una sferzante denigrazione di Elisabetta I. Ancora una volta l'Inghilterra si trova ad affrontare un destino precario, ma grazie alla personalità della regina, la seconda era elisabettiana esordisce con ben diversi auspici. La sua indole è nota a tutti, è frutto di un'infanzia felice, fondata sui più elevati principi morali e cristiani, e serena grazie all'amore e all'unità della famiglia. Al contrario, per la prima Elisabetta, con il lussurioso, dispotico Enrico VIII come padre e l'intrigante Anna Bolena come madre, forse non fu immeritato il titolo di figlia del diavolo attribuitole dall'ambasciatore spagnolo. Dell'incoronazione di Elisabetta I, un contemporaneo aveva detto: «Nella pompa dei cerimoniali, certo, risiede un segreto di governo». Elisabetta si era spontaneamente rivolta al popolo nella City mentre si recava all'incoronazione. Alexander aveva inserito le sue parole nel suo dramma. «E poiché la vostra richiesta è che io resti vostra signora e regina, siate certi che sarò per voi la sovrana più benevola che mai popolo abbia avuto. Non mi verrà mai meno la volontà, e confido che non mi venga meno il potere. E non dubitate, per la sicurezza e tranquillità di voi tutti, non esiterò, in caso di bisogno, a versare il mio sangue. Che Dio vi benedica». No, pensò Alexander quel giorno. È evidente che oggi manchiamo sia di calore sia di parole ben intessute. Lucas aveva detto a Marcus che milioni di energie mentali si sarebbero concentrate su quell'unico luogo, su quell'unico evento. Marcus doveva cercare di sintonizzarsi con quelle forze. Connessioni elettriche e falsi che poteri invisibili producessero segni e simboli visibili, l'unzione della sovrana e l'azione dei raggi catodici. Parlò di flussi, maglie e bande di frequenza. Lucas sedeva dalla parte opposta della stanza rispetto a Marcus, che sedeva in prima fila accanto agli altri ragazzi. Lucas aveva detto che era meglio far passare inosservato l'esperimento. Di tanto in tanto Marcus avvertiva su di sé, come il fascio luminoso intermittente di un faro, lo sguardo di Lucas. Per la maggior parte del tempo la sua diligente osservazione non produsse altro che una visione geometrica della superficie di vetro, brulicante di puntini, aste, vermi, pallini, chiazze, ondeggiamenti e contorsioni ritmiche. Ciò nonostante, al momento dell'unzione della regina, alla quale Lucas gli aveva fatto promettere di prestare particolare attenzione, riuscì improvvisamente a mettere a fuoco l'immagine come immagine. Nel momento in cui veniva sollevata la cappa d'oro di un grigio luminoso e vide la minuscola donna con 15 metri di stoffa bianca plissettata incrociata sul seno maestoso, seduta sul trono antico e rigido, una mano sull'altra come le mani sudate di Marcus. Allora lo schermo prese a guizzare e le immagini si sollevarono e si capovolsero, piedi sopra testa, sopra piedi sopra testa, e così Marcus le vide divenute bidimensionali. Forse Lucas aveva sperato che vedesse scendere la colomba, o che, come era accaduto a una veggente, vedesse i piedi e le ginocchia della statua dell'angelo dell'abbazia emergere, lucidi e giganteschi, dalla struttura del tetto. Ciò che accadde fu simile alla dilatazione. Per un istante le dita di Marcus si aggrapparono alla stoffa bianca che gli gelava le spalle e il petto. Marcus si alzò, mormorò qualche parola incoerente e si avvicinò barcollando al televisore, dove immediatamente una rappresentazione di fasci di fil di ferro in una tormenta di neve sostituì la rappresentazione del corpo umano. Gli altri gli dissero di sedersi. Lucas Immons si alzò in piedi, Daniel fece lo stesso e Lucas, vedendolo, si rimise seduto con l'aria spaventata e arrabbiata. Marcus ruotava lentamente su se stesso. Daniel lo prese per un braccio e, manifestamente, quando il corpo di Daniel si interpose tra il ragazzo e il televisore, il fruscio cessò e Sua Maestà si stabilizzò e riprese a sorridere radiosa. Marcus, dolorante, voleva mordere Daniel, che i suoi occhi appannati quasi non vedevano, ma che si sentiva intorno a sé come un boa constrictor. Daniel guardò il viso di Marcus, poi gli diede un energico pizzicotto sul gomito, la scossa meno violenta che potesse somministrargli, e disse a Stephanie di fargli posto sul divano. Tra i loro due corpi caldi, Marcus, scosso dai brividi, si placò. Daniel gli diede un altro pizzicotto, quasi maligno, che gli fece chiudere di scatto la bocca aperta. Poi chiuse anche gli occhi e si rilassò, sostenuto dal calore nero e asciutto che sembrava emanare da Daniel verso Stephanie, creando un circuito che lo riparava da ogni altra forza presente nella stanza. Stephanie diede un'occhiata a Lucas Simmons. Sfoggiava un sorriso soddisfatto e conciliante, infantile, ma era paonazzo sotto i riccioli e aveva le lacrime agli occhi. Quando si accorse che lo stava osservando, fece una serie di cenni rigidi, presumibilmente affabili, si infilò le mani sotto il sedere e ci si sedette sopra, come se volesse esercitare una qualche difficile forma di autocontrollo. Il corteo avanzava serpeggiando. Il cronista sottolineò più volte il superbo talento degli inglesi per il cerimoniale. Tanti uomini che si muovono all'unisono, altrettanti cuori che battono all'unisono. Frederica disse che detestava le situazioni di massa, che le masse che si muovono come un solo animale la terrorizzavano. Il che evidentemente ispirò un discorso a Edmund Wilkie. A un certo punto, durante la cerimonia, quando le strade di Londra erano nere di pioggia, si era messo un paio di grosse lenti rosa attraverso le quali adesso sorrideva loro, dicendo che aveva conosciuto uno psicanalista interessantissimo, un certo Winnicott, che aveva idee davvero affascinanti sulle pulsioni inconsce che si nascondono dietro la democrazia. Secondo Winnicott, disse Wilkie, tutti gli esseri umani sono posseduti da una paura inconscia della donna, paura che, naturalmente, rende difficile per le donne ottenere o mantenere il potere sociale o politico. I dittatori, sempre secondo Winnicott, fronteggiano il terrore della donna pretendendo di controllarla e agire per lei. Ecco perché esigono non soltanto obbedienza, ma anche amore. Forse per questa ragione Frederica temeva tanto le emozioni di massa, l'amore quanto l'odio. Ognuno dei presenti frugò furtivamente nel proprio inconscio, in cerca di una qualche paura della donna, e ovviamente, bisogna dirlo, la trovarono. Bill Potter disse a Wilkie che tutta la faccenda gli sembrava una corbelleria, e Frederica disse: «Ma allora che dire della regina e di tutto l'affetto che stiamo dimostrando?» Wilkie disse che la corona non era un problema perché è ereditaria e sta in cima a una catena di parentele simboliche, come la prima Elisabetta ben sapeva. I comuni sono i genitori del popolo, i lord dei comuni e il sovrano dei lord. Se poi il monarca riesce a credere in Dio, la catena simbolica si estende all'infinito e diventa alquanto sicura e stabile. Così, disse Wilkie, Winnicott dimostra che i miti del dio morente e dell'eterno monarca funzionano ancora nella nostra cultura. La regina ci protegge dalla paura della donna perché è un genitore buono, distante, non minaccioso, e così abbiamo la nostra monarchia democratica. Bill disse che ne aveva abbastanza di ricondurre ogni cosa a sesso e famiglia. Wilkie disse che era d'accordo, ma ormai bisognava essere freudiani per forza. E comunque i tropismi psicologici universali appaiono sempre sbagliati se analizzati alla luce del giorno che non gli si confà, dal momento che si tende a reprimerli e contrastarli, se no non sarebbero ciò che sono. «Era proprio quello il problema con la psicanalisi», disse Bill. «Era un circolo chiuso in cui ogni forma di disaccordo veniva attribuita a una resistenza, con ciò rafforzando il punto di vista iniziale». Lui fece la tendenza alla larga. E se Wilkie voleva conoscere la sua opinione, beh, a suo avviso il vero pericolo non veniva dalla donna, ma da quell'insignificante, piccolo, davvero piccolo schermo universale, che avrebbe certamente fatto piazza pulita della lettura, la conversazione, i giochi collettivi, l'arte e la vita. Wilkie disse che forse quello non sarebbe accaduto, ma se avessero assistito agli esperimenti di suggestione subliminale ai quali aveva assistito lui, si sarebbero spaventati pensando a ciò che potrebbe fare un Hitler con immagini di ebrei crudeli che strangolano bambini affamati. Ma la televisione era ormai un dato di fatto e sarebbe durata. Quanto a lui, aveva intenzione di impegnarcisi perché era il centro propulsore della cultura dell'epoca. O si decideva di usarla o si restava seduti a guardare. Affermazione quest'ultima che si impresse in modo indelebile nella mente di Frederica e Alexander. Anche se Wilkie sembrava un po' sciocco e inoffensivo, con quelle lenti rosa e quel principio di barba che si era fatto crescere per la parte di Rayleigh. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.